Attenzione. Comincia Happy Smile con Isabella Ilardo. Power Back. Checche, ci siamo, un altro appuntamento, un'altra settimana, pronti per partire, quindi buon pomeriggio ufficialmente, siamo all'interno di Happy Smile, anche per quest'oggi passeremo due ore insieme, due ore all'insegna della grande musica, ma soprattutto vogliamo passare due ore in vostra compagnia, quindi è giusto darvi le giuste coordinate per potervi mettere in contatto con noi, ovvero il 335-5637-251, la nostra messaggeria ufficiale dove potete richiedere brani che vi piacciono di più, salutare gli amici da lontano e da vicino, augurare la buona giornata a chi volete voi. C'è anche la pagina di Facebook per interagire e comunicare in tempo reale con noi e la nostra posta isaiaco@crmvradio.it. Noi abbiamo iniziato con il Power Back, il disco Rispolvere, in questo caso Morricante, la sua Yeke Yeke. Ricorderete sicuramente questo singolo perché era diventato famosissimo per una nota marca di scarpe, una pubblicità veramente allucinante. Dopo il disco vecchio, naturalmente, arriva il disco nuovo. Lo facciamo insieme a Jamiroquai, la sua White Conkler Rider. Grande ritmo anche per quest'oggi, yeah, lui è Jamiroquai. Allora, visto che questo è il primo appuntamento della settimana, mi viene un po' naturale chiedervi, no, come è andato il fine settimana? Vi siete divertiti? Cosa avete fatto di bello? Magari siete rimasti a casa, nulla di particolare, però a volte dopo una settimana stressante di lavoro l'unica cosa che può rilassarci è veramente restare a casa, non avere nessun contatto con nessuno, tu, la tua casa, le tue ciabatte, magari anche il tuo pigiamino per l'intera giornata, ed è viva il weekend. Più belli di questi non ce n'è di sicuro. Si prosegue con la musica qui all'interno di Happy Smile. Lei è Madonna, Revolver. Sex Pistol should be illegal. Real deal, baby, I'm no counterfeit. Click, click. My body's fully loaded and I got more ammo. You're an accessory to murder, kid. My sex is a killer. Do you wanna die happy? Do you wanna die happy? This right here is a freedom for you. My sex is a killer. Do you wanna die happy? Do you wanna die happy? Play any bang bang. I send a bang bang. I send a bang bang. I send a bang bang. My love's a revolver. My sex is a killer. Wayne, the shooter name is Wayne. The victim didn't complain. She just screamed, shoot again. I gave her extra rounds. My barrel twist around. I am Mr. Shooting Down. I leave parts on the ground. I love using weapons. Yes, I use it well. Then I let the rules battle color out the bullet shells. I never shoot and tell. I only shoot to kill. And that best ain't gonna help you even if it may have. My love is a revolver. Do you wanna be my target? Cause I'm a sharp shooter. Matter of fact, I'm the sharpest. My aim is so flawless. Girl, you could be the farthest. I'ma still shoot my love. Let me know that you caught it. I'm the trigger man, I pull it. I will when he wouldn't. Do you wanna eat the bullet? And I know where to put it. It's easy ever, baby. I'm shooting like the army. Should be illegal, better put the safety on me. Quick, yeah. I'm above, knocking down, my lips can kill it, oh, hey, oh. My body's fully loaded and I got more ammo. I'm above, knocking down, my lips can kill it, oh, hey, oh. You're an accessory to murder, kid. My love's a revolver, my sex is a killer. Do you wanna die happy? Do you wanna die happy? This right here is a freedom for you. Sex is a killer. Do you wanna die happy? Do you wanna die happy? Play any bang bang. I send a bang bang. I send a bang bang. I send a bang bang. My love's a revolver. My sex is a killer. Do you wanna die happy? Do you wanna die happy? I think I need my way. I'm above, knocking down, my lips can kill it, oh hey, oh. My body's fully loaded. Questo praticamente era il periodo in cui Lil Wayne praticamente era come il prezzemolo, lo trovavi in compagnia di chiunque, featuring di qua, di là, e ultimamente invece diciamolo pure che scarseggia perché non promette tanto bene. E allora com'è andato questo inizio? Noi promettiamo bene, penso, perché la buona musica l'abbiamo scelta, anzi la scelta è il nostro Iaco, abbiamo iniziato veramente alla grande questa settimana. Adesso facciamo la nostra prima pausa, Iaco, perché no? Ci prendiamo anche il nostro caffettino pomeridiano e poi naturalmente si ritorna all'interno di Happy Smile con la grande musica targata a casa nostra, quindi tutta italiana. Happy Smile con Isabella Ilardo. Misteriosa e tenebrosa, quando vuole fa paura, ma ti abbraccia e ti difende se l'ascolti. Se ti nascondi e cerchi dentro lei la forza per andare avanti e non tradirla con il sole e raggi. Mi copre dagli insulti e dalle male lingue che cercano solo di ferirmi e screditarmi. Mi lascia fare anche se sbaglio a farmi male senza insultarmi. Non come te che invece hai cancellato in un momento tutto quanto ed è rimasto dentro te soltanto il peggio. Per uno sbaglio ed un momento in cui mi sono sentito solo, senza coraggio. Ma la notte so che pensi a me. Penso. Dico ci riesco, poi mi perdo, ci ricasco nei momenti di sconforto, quando intorno a me è tutto buio come la notte, come le botte, come le ferite abbandonate, mai curate, ancora aperte. sbagliare umano, ma per te uno sbaglio è tutto. Sono solo un malandrino d'un violento. Per una volta provo ad ascoltare il cuore e non l'orgoglio. Ma la notte so che pensi a me. Loro sono Medai, ancora una volta voglio salutare tutti gli amici che quest'oggi hanno deciso naturalmente di passarlo in nostra compagnia, non solo perché voglio salutare anche tutti gli amici che ci ascoltano nel corso della nostra replica. Sapete, Happy Smile va nel live dalle 15 alle 17 e poi naturalmente si replica dalla mezzanotte in poi. Appuntamento imperdibile con Moby, il famoso DJ e produttore newyorkese, pensate, il primo artista ad aver confermato la propria partecipazione all'edizione 2011 della Fiera della Musica, in programma verso l'area Palaverde di Azzano Decimo, il tutto però naturalmente per la prossima estate. Però c'è tempo, la performance di Moby è fissata per il 9 luglio e sarà un'occasione unica per ascoltare dal vivo il nuovo materiale del musicista statunitense. La nuova release tra l'altro farà seguito a Last Night. I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. That's what I really need. Nobody's perfect now.

Fare i miei complimenti a Bruno Mars, anche se poco importa perché non li sentirà mai, però questo singolo veramente è bello, più bello dello scorso, veramente ci ho messo molto più impegno e vi giuro che impegno ci metterò oggi io, perché ogni volta vengo rimproverato, ogni volta non mantengo le promesse, ogni volta non arrivo a leggere tutti i messaggi ed è vero, perché ci sono giornate in cui siete molto pigri, ma ci sono giornate in cui ci martellate veramente con tantissimi messaggi e veramente non ce la facciamo. Beh, quest'oggi cercheremo e faremo tutto il possibile per concentrarci con i vostri sms che naturalmente manderete al 335 56 37 251. Vi ricordo anche la mail ancora una volta isaiaco@crmpiradio.it e naturalmente la nostra pagina di Facebook, in modo per interagire in momento reale, non che gli altri non lo siano, però per ora c'è il tormentone di questo social network, questo Facebook, che praticamente ovunque vai te lo ritrovi, anche quando mangi col computerino lì che chatti con l'amico, ciao come stai, come è andata la giornata, che fai di bello, scrivimi un pensierino. La tecnologia, pensate un po' cosa fa. Io ho voluto rispolverare questo singolo, gliel'ho chiesto proprio io al nostro Iaco, quindi di tanto in tanto anch'io scelgo la musica. Si tratta di Sam Sparrow, ma proprio questo inizio, questo intro che mi permette di parlare tantissimo. Vedo Iaco dall'altra parte del vetro, mi sta tirando un martello, perché poi io quando ci sono questi intri così mi prolungo, ma tanto tanto tanto. The apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking. And the stars fell out of the sky and the tears rolled into the ocean. And now I'm looking for a reason why you even set my world into motion. Cause you're not really here and the stars don't even matter. Filled to the top of fear that it's all just a bunch of matter. Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you, black and gold, black and gold, black and gold. We'll be right back. all around these golden beacons. I see nothing but black. I feel the weight of something beyond them. I don't see what I can feel. Vision is the only validation, and most of my life isn't real. Cause if you're not really here, then the stars don't even matter. Now we fell to the top of fear, that is all just a bunch of matter. Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. A bunch of matter. Cause if you're not really here, I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, black and gold. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Stai ascoltando Happy Smile. Pausa e rieccoci nuovamente in diretta. Ogni qualvolta dico rieccomi, non può che saltarmi alla mente un grande amico che tra l'altro colgo l'occasione anche per salutare, il Peppe Turdo. Ricorderete, abbiamo fatto un grande programma insieme, protagonisti siete voi, veramente tanto successo. Lanciavamo gli argomenti e voi ci tempestavate, comunicavate con noi, con i nostri messaggi. Beh, nostalgia di qualche periodo fa. Allora, come ho promesso, no, io voglio mantenere tutte le mie promesse. Naturalmente iniziamo subito con la messaggeria del 335-56-37-251. Ciao raga, sono Carlo, vi ascolto in streaming, vivo a Sant'Agata addirittura, siete troppo simpatici e mi piace la musica che passate. Anch'io da oggi sono uno dei vostri. Che bello, un altro amico in più che ci segue. E finalmente, secondo me, un brano che farà successo. divertente e ti entra subito in testa. Il nuovo album sarà completamente differente da questo primo singolo, Goodbye Lullaby, infatti conterrà tracce più profonde, melodiche e sincere. Uscirà l'8 marzo, lei è Avril Lavigne con il nuovo singolo, What the Hell. Impatto questo singolo, molto divertente veramente, si tratta di Avril Lavigne e il suo nuovo What the Hell. Ancora una volta vogliamo salutare il nostro amico Carlo che ci ascolta da Sant'Agata di Militello e non solo, salutiamo anche il nostro amico Davide e poi naturalmente tutti quelli che ci ascoltano da quelle parti e tutti quelli che ci ascoltano in streaming attraverso www.crmpiradio.it. Entrate nel nostro sito, il sito è tutto nuovo, tutto da scoprire, poi ci sono anche le repliche in podcast, veramente tante cose nuove. Till you came around, I had my feet on the ground. So much for that. Just an ordinary day. Till you came around, and now my life's upside down. Imagine that. And it's all because I heard you say. And it's all because I heard you say. And it's all because I walked your way. And I heard you say. I heard you say. And I heard you say. I heard you say. And I heard you say. I heard you say. I heard you say. I heard you say. around. I had my head straight and sound. They've told me that just an ordinary day till you came around, and now my life's on the bounce, just like that. Lei è Tracy Spencer, ritorna all'ennesimo passaggio del Power Back. Scusate perché la voce ogni tanto va via. Sapete, questi sbalzi di temperatura che ci sono in quest'ultimo periodo fanno sì che ci si influenza, che si prende la tossicina e un po' di faringite anche, giustamente, come si suol dire, non guasta neanche bevanda. Dicevamo, Tracy Spencer, ennesimo passaggio del Power Back all'interno di Happy Smile, il disco rispolverato, il disco vecchiottello che ha fatto tanto successo e che noi nostalgici amiamo un attimino rinfrescarci. 335-56-37-251, isaiah@crmvradio.it. E adesso arriva One in a Million, la grande musica hip hop affidata al nostro Neo. Less than all, but more than a few. But I never met one like you. Been all over the world, done a little bit of everything, little bit of everywhere, with a little bit of everyone. All the girls I've been with, things I've seen, it takes much to impress. But sure enough, your glow, it makes you so stand out from all the rest. Baby, I could be in love, but I just don't know. Maybe one thing is for certain, whatever you do is working. Other girls don't matter in your presence, can't do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Girl, you're so one in a million. You are, baby, you're the best I ever had. Best I ever had. And I'm certain that there ain't nothing better. A regular girl, you don't give a damn about the loot. Talking about I can't do for you what you can do for yourself. Even though that ain't so, baby, cause my dope don't know how to end. But that independent thing, I'm with it, all we do is win. Whatever you do is working. Other girls don't matter. In your presence, can't do what you do. There's a million girls around, but I don't see no one but you. Posso che ricordarvi l'appuntamento con l'hip-hop, il soul, l'R&B, il venerdì. Freestyle, Isaiaco, CRM Happy Radio, la grande musica. E a proposito di musica hip-hop, andiamo a leggere un altro messaggio che c'entra pure. Ma buon pomeriggio, come vi butta? Beh, come ci butta? A me mi butta bene, Iaco guardandolo in viso gli butta anche bene, quindi tutto ok. Salutami Iaco, lui è il grande che sceglie la musica, dai, digli anche che con l'hip hop praticamente abbiamo gli stessi gusti. A proposito, mi fai ascoltare Neo con One a Million. Ciao Elena, eccoti anche accontentata, adesso arrivo una Negrita. Ogni uomo è solo quello che scoprirai seguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, vado via. Mi dida così sia.

prigioniero dentro al carcere infinito. Mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri, considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo. Sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo. Lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto. Senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Tutto l'amore che ho. Questa è la mia bellissima voce. Beh, non me l'avevo fatta mai sentire così in tutto il mio splendore. Ed ecco che è uscita fuori nel sottofondo dell'ultimo singolo di Mister Giovanotti, Tutto l'amore che ho. Siete sempre all'ascolto di Happy Smile, anche per questo appuntamento, per queste due ore, anche se la prima ce la siamo masticati circa. E per questo inizio settimana voglio salutare tutti gli amici che ci stanno ascoltando, e rinnovo i saluti naturalmente per tutti quelli che ci ascolteranno e che ci stanno ascoltando nel serale, quindi nel corso della nostra replica. Ben ritrovati anche a voi, naturalmente buona serata. Non lo sapevo che James Blunt, musicista inglese, anche ex ufficiale di cavalleria e dispiegato dalla NATO in Kosovo. Poi tra l'altro James Blunt, anche se vecchiotto come notizia, però è stato, penso, una cosa bella, insieme ad altri artisti è andato praticamente in Afghanistan, è andato in Kosovo per cantare per le truppe inglesi che si trovano sul posto, per dare un po' di calore in questo Natale. Bello, bello veramente questo. Poi tra l'altro Blunt ha anche recentemente pubblicato il suo nuovo disco Some Kind of Trouble, che è anticipato dal singolo Stay the Night, anche se poi è uscito in questi giorni il nuovo singolo Stay the Night, che ha conquistato le prime posizioni delle charts britanniche. Poi il cantautore, anche molto amato dalle nostre parti, dove tornerà per esibirsi praticamente dal vivo in due perdibili show, praticamente il 13 marzo e il 14 lo troveremo in Italia. A proposito di James Blunt, di questo singolo che sta imperversando il largo e il lungo, ce lo ascoltiamo, Stay the Night. Hey, it's 72 degrees, zero chance of rain. It's been a perfect day. We're all spinning on our heels, so far away from real, in California. We watched the sunset from our car, we all took it in, and by the time that it was dark, you and me had something, yeah. And if this is what we've got, then what we've got is gold. We're shining bright and stay the night. Oh, yeah, we've been singing Billie Jean, mixing vodka with caffeine. We got strangers starting Happy Smile con Isabella Ilardo. Ooh. everyone's gone and it's cool. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete. Voi, ma a me ogni qualvolta che ascolto questo singolo mi mette addosso un'adrenalina veramente incredibile, un brano molto pieno, molto carico, uno di quei brani che praticamente metteresti mentre ti trovi in viaggio e andresti anche in capo al mondo. Ditemi che non è così. Ritorno nei messaggi al 335 56 37 251. La radio che mi tiene compagnia ogni pomeriggio, grandi. Alessio, dite a Laura che è la mia vita, che romanticone, che è il nostro Alessio. Speriamo che Laura sia all'ascolto e che sia arrivato il messaggio: sei la vita di Alessio. Che bello quando arrivano questi messaggi, anche perché la forza della musica attraverso noi arriva a voi, veramente qualcosa di straordinario. Pensate, poco straordinario diciamo che è stato questo evento per Lily Allen, anche se ora sembra sia un po' la situazione risolta, sembra essersi ripresa, perché dopo la terribile perdita del suo bambino a causa di un aborto spontaneo e 6 mesi di gravidanza, beh, Lily Allen adesso sembra essere rinata, tanto che la cantante, pensate, ha fatto la sua promessa di matrimonio al fidanzato Sam Cooper. Il tutto è avvenuto in una cornice molto romantica su una spiaggia in Estremo Oriente. Io dico, adesso ci sta il contesto, ci sta il romanticismo e tutto quello che vogliamo, ma come fanno i tabloid a sapere una notizia del genere, a meno che qualcuno di così stretto, qualcuno di così fidato non sappia questa notizia, voglio dire, perché perché lei che chiede di sposare il suo lui, penso che sia una cosa molto intima, una cosa tra lui e lei, appunto. Quindi come fanno giusto a trovarsi lì i tabloid del Sun? Vabbè, lasciamo stare, chiudiamo la parentesi. Allora, Lily a quanto pare, appunto, era molto raggiante quel giorno quando Sam le ha chiesto addirittura di sposarlo. Ha subito risposto di sì. Sam e Lily sono fidanzati da luglio del 2009, ma in realtà si conoscono da molti anni perché erano amici. La coppia però è messa un po' a dura prova, appunto, dopo che Lily ha avvertito fortissimi dolori alla pancia ed è stata ricoverata ad urgenza in ospedale. Lì praticamente il riposo e il responso terribile dei medici, aveva perso il bambino, il secondo figlio che Lily tra l'altro ha perso purtroppo negli ultimi 3 anni. Già nel dicembre del 2007 era rimasta incinta dell'allora fidanzato Ed Simmons dei Chemical Brothers, aveva perso in quell'occasione purtroppo anche il bimbo. Beh, speriamo che adesso sia una ruota molto fortunata per Lily Allen, speriamo che tutto le ruota per il verso giusto e noi gli auguriamo 50 milioni di anni. Beh, sicuramente noi a Lily Allen non gli auguriamo di certo 50.000 lacrime, perché già sicuramente ne ha versate tantissime con quello che le è accaduto, quindi gli auguriamo 50 milioni di giorni felici. Giuliano Palma, 50.000 featuring Nina Zilli, qui all'interno di Happy Smile insieme a Dise Iaco, anche per questo pomeriggio che pian piano va scivolando per quanto ci riguarda e pian piano arriviamo quasi al termine. Adesso arriva un brano molto di contenuto, molto pieno, dice tante di quelle belle frasi, ma così potenti che ti rimangono alla mente e non riesci a dimenticarle. Pensate un po', semplicemente Barbara Streisand. Un brano molto, molto contenuto, no? Molto pieno. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Eccolo lì, Barbra Streisand. Notizia un po' vecchiotta, adesso vi do, però ve la voglio dare perché praticamente mi fa piacere, anche perché è un film che ho visto che mi ha fatto veramente tanto ridere. Il sorpasso finalmente è avvenuto dopo un serrato testa a testa. La banda dei Babbi Natali, praticamente il 27 dicembre, ha superato al botteghino Natale in Sudafrica. Il cinepanettone del trio Aldo, Giovanni e Giacomo dunque si è piazzato al primo posto dei box office, battendo così la coppia attualmente Belen Rodriguez, Christian De Sica. La forma De Laurentiis del cinepanettone è geniale, ma forse sarebbe il caso di cambiare, come dire, menù natalizio. Interviene praticamente il trionfatore dei botteghini del 2010, il regista Luca Miniero, premiato a Capri Hollywood International Film Fest, osservando dall'alto dei suoi 30 milioni di euro, perché oggi il gusto del pubblico appunto è quello più aperto e pronto naturalmente come dire, a vedere belle commedie tutto l'anno, quindi non credo esista più lo spettatore che va al cinema solo a Natale, quindi diciamo che deve rivedere un pochino la scena. Noi invece adesso ci fermiamo per una piccola pausa e dopo l'ultima mash finale di Happy. Stai ascoltando Happy Smash. Sin verte, me parecieron años. Tanto te quise besar que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces. Los dejo solos y ciegos tantas veces. Cuando menos piensas sale el sol, tanto sumar,